Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. People who need people are the luckiest people in the world. Le persone che hanno bisogno degli altri sono le persone più fortunate del mondo. Questi versi che compongono l'incipit della meravigliosa canzone People sono una vera dichiarazione d'amore per il prossimo. Composta nel 1964 da Jules Stein e Bob Merrill per l'opera musicale Funny Girl, liberamente ispirata alla vita dell'attrice statunitense Fanny Bryce, People ha un primato che la rende indimenticabile. Essa decreta infatti il lancio nell'Olimpo dei grandi artisti dello show business mondiale, di colei che è universalmente riconosciuta come una delle più grandi interpreti femminili della storia musicale di tutti i tempi, la strabiliante Barbara Streisand. Una voce così assolutamente inconfondibile. È lei, Barbara Streisand, la protagonista dei Magnifici Destini di oggi. Proveremo a indagare negli esordi della sua lunga carriera, alla scoperta delle radici di uno dei talenti più grandi che il mondo dello spettacolo annoveri tra i suoi rappresentanti, alla ricerca di quegli avvenimenti e soprattutto di quegli incontri che hanno reso possibile l'affermarsi di questa grandissima interprete. E iniziamo il nostro racconto con una bambina che sta ascoltando una canzone alla radio. Over the Rainbow, un classico intramontabile, una canzone che non conosce momenti di crisi. Pezzo forte della colonna sonora del film Il Mago di Oz, che vede la luce nel 1939 per la regia di Victor Fleming, Over the Rainbow ha immediatamente un successo strepitoso. Il Mago di Oz esce solo pochi mesi prima di un altro grandissimo film dello stesso regista, niente meno che Via col Vento. Intorno alle due pellicole si scatena una vera e propria bagarre pubblicitaria per la grandiosità delle due produzioni, il dispendio di mezzi, gli attori famosi, gli effetti speciali e anche una buona dose di gossip. A interpretare Over the Rainbow è una giovanissima Judy Garland. Day I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. È lei il primo incontro determinante nella vita di Barbara Streisand. È proprio la sua voce che sta ascoltando alla radio quando ha forse 10 anni sì o no. È in casa, a Brooklyn, dove è nata. La sua è una famiglia ebrea e la madre è in cucina a preparare alcuni piatti della loro tipica tradizione. Intanto lei smanetta con l'enorme manopola dell'apparecchio radiofonico che domina il salotto alla ricerca delle sue canzoni preferite. Probabilmente è proprio in quel preciso istante che la bambina decide di diventare anche lei un'attrice e una cantante brava e famosa come Judy Garland. Molti anni dopo, nel 1963, nel corso del Judy Garland Show, Barbara Streisand, intervenuta come ospite, ricorda alla collega di essere una sua fan da tantissimo tempo e ci scherza anche un po' su. Questo è un grande show! Abbiamo delle persone meravigliose, abbiamo Barbara Streisand! Penso che sia stupenda! Ha una voce, è così elegante, attraente e è una grande gioia averla nel mio show! Judy, è grandioso essere qui con te. Lo sai, sono una tua fan da quando avevo 2 anni. Barbara scherza con Judy. La gag sulla differenza di età è un classico degli show americani quando sulla scena si trovano 2 star del loro spessore. Ma in realtà potrebbe benissimo essere. Lei è nata nel 42, quindi ben 3 anni dopo l'uscita del film Il Mago di Oz. Ed è proprio vero che a sua memoria la voce di Judy Garland l'ha sempre accompagnata. Quando interpreta Il Mago di Oz, Judy Garland ha solo 17 anni, ma ha talento da vendere e la sua carriera da quel momento decolla. Entra a pieno diritto nello Star System e sposa il grande regista Vincente Minnelli, conosciuto sul set del film Incontriamoci a St. Louis, con il quale avrà la figlia Liza, destinata a diventare a sua volta una cantante di incredibile talento. Ha una voce profonda, intensa e duttile, una presenza scenica importante e Barbara, fin da bambina, la ascolta alla radio e la vede al cinema. Ha deciso. Vuole diventare come lei, una grande attrice e una grande cantante. I was born in Michigan, and I wish and wish again that I was back in the town where I was born. Barbara va spesso al cinema con sua madre, solo loro due. È un rapporto speciale quello che le lega. Barbara è rimasta orfana di padre a soli 15 mesi e di lui non ha alcun ricordo. Il vuoto che le lascia questa mancanza non sarà mai colmato e con il secondo marito di sua madre non andrà mai d'accordo. E forse il mondo della fantasia, quello del cinema in un primo tempo e della musica subito a seguire, le devono apparire molto più accoglienti della realtà. Come lei stessa racconta, in un primo tempo vuole fare l'attrice, ma non ci riesce. E il caso le dà una mano a diventare una cantante. Mi iscrissi a due corsi di recitazione contemporaneamente. E mi dovetti trovare anche uno pseudonimo per uno dei due, Angiolina Scarangella. Mi piace molto la lingua italiana, sì. E quando vidi che non trovavo lavoro come attrice, provai a fare la cantante, ma utilizzai quello che avevo imparato ai miei corsi di recitazione. Ogni canzone la interpretavo come se fossi ogni volta un personaggio differente. Entravo nella parte, provavo a far riaffiorare quei ricordi mentre cantavo. Facevo anche esercizi di rilassamento. Barbara dunque prova a fare l'attrice, ma senza successo. Ha una relazione sentimentale con Barry Dannon, futuro attore e doppiatore, ed è proprio lui a suggerirle di iscriversi a un concorso canoro indetto in un nightclub che si trova di fronte a casa sua, un locale gay molto noto del Greenwich Village, The Lion. Chi dovesse capitare a New York può trovare ancora The Lion al suo posto, al 62 della West 9th Street. Sono moltissimi gli artisti che iniziano qui. Il Greenwich Village ascolta le prime note cantate da Bob Dylan, ride alle prime battute di Woody Allen. Barbara sogna di diventare attrice, ma ha bisogno di guadagnare. Per questo accetta di partecipare al concorso. Partecipai al concorso, anche se non ero una cantante. Non avevo mai preso una lezione di canto in vita mia. Ma non avevo lavoro, non percepivo nemmeno l'assegno di disoccupazione. E così provai lo stesso. Mentre cantavo pensavo che non fosse una cosa importante. Mi domandavo, ma cosa ci faccio io qui? Dovrei recitare Shakespeare o Chekhov. Ma che ci faccio in un night? When a bee lies sleeping in the palm of your hand. Bastano poche note, due o tre affondi di quella voce unica, calda, avvolgente, sensuale e fresca al contempo, per scatenare un brusio tra i presenti. Ma chi è quella ragazzina vestita in quello strano modo, con abiti vintage di broccato e soprattutto un naso importante e un trucco bistrato che ricordano la regina Cleopatra? Non si sa chi sia. È strana, non segue la moda, ma di certo non ha rivali. Anche la scelta della canzone che canta è particolare. A Sleeping Bee, un'ape addormentata. Una cosiddetta canzone popolare scritta da Harold Arlen su un testo dello scrittore Truman Capote. Quando sei innamorata e ti domandi se è davvero la persona giusta, c'è un antico e sicuro sistema per dirti se la tua ricerca è compiuta. Cattura un'ape e se non ti punge, sei all'inizio di un incantesimo. È una garanzia fino alla fine dei tempi che il vero amore ha vinto. Se un'ape si addormenta nel palmo della tua mano, sei stregata. La performance di Barbara Streisand non ha nulla che segua la moda del momento, non è in tendenza con quell'inizio degli anni 60 che vedranno molto presto farsi largo i Beatles, i Rolling Stones. Eppure contro ogni previsione Barbara vince il concorso, aggiudicandosi l'ingaggio messo in palio. Ha 18 anni e canta già in maniera strabiliante, pur essendo del tutto autodidatta. La sua voce melodiosa è assolutamente intonata e di certo un dono di natura, ma la sua determinazione, il dominio del palcoscenico che si intuisce, la cura nei dettagli che mette naturalmente nella sua interpretazione, fanno già presagire quello che accadrà in un futuro prossimo. Mentre canta, Barbara recita. Pensa alle incredibili performance del suo mito, la grande Judy. Si ispira a lei, creando al contempo uno stile del tutto personale. Fin dalla sera successiva sono molti i manager che la contattano e lei comprende che forse le si sta aprendo davanti una carriera inaspettata. Barbara lavora molto su se stessa. Si vuole creare una personalità diversa da tutte le altre. Per essere unica e inimitabile, decide di partire dall'inizio, dal suo nome. È proprio qui, mentre canta a Lion, infatti, che fa cadere una A dal suo nome e diventa per tutti Barbara. Mi sembra più distintivo Barbara, meno comune. A me il nome Barbara non è mai piaciuto, ma non volevo cambiarlo. Non ho mai voluto cambiare niente di me stessa, neanche il naso. Ho dovuto cambiare il mio modo di vestire, però. Perché a quel tempo collezionavo cose vecchie, mi piacevano i vestiti vintage, antichi. Ma la gente guardava come ero vestita strana e i giornalisti iniziarono a scrivere di come mi vestivo. E allora io pensai che non andava bene, non facevo mica l'attrice. Dovevano parlare della mia voce. E quindi iniziai a vestirmi in maniera più normale. Il successo di Barbara è immediato. I giornali scrivono di lei già la mattina dopo e molti locali iniziano a farle la corte. Anche il rinomato Bonsoir, che si trova al 40 della West 8th Street, a pochi passi dal Lion, è uno dei club più famosi del Greenwich Village, nonché di Proibito. Forse sarà quella scala di 31 scalini che bisogna scendere per accedere al suo salone, una stanza quadrata e completamente nera. Forse sarà perché è piccolissimo. Ci stanno a malapena 25 tavolinetti che ogni sera sono assaliti da una folla di avventori che vogliono sedersi, mangiare qualcosa, bere tanto e soprattutto sentire il cantante di turno. La gente è stretta l'una contro l'altra, spalla contro spalla. Si fa fatica a raggiungere la cassa per pagare la consumazione. C'è buio pesto, tanto che i camerieri hanno una lucina sulle maniche per poterli riconoscere e fermare per una ordinazione. Ci cantano Phyllis Diller, Kay Ballard, Ethel Waters, con la sua famosissima Stormy Weather, sempre del noto compositore Errol Darlin. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Barbara viene chiamata per un'audizione. Bisogna essere molto bravi e famosi per cantare al Bonsoir e lei per ora famosa non è, ma la chiamano lo stesso. In un'intervista concessa al Playboy Magazine molti anni dopo, Barbara ricorda quell'audizione al Bonsoir del 1960. Mi dimenticai che avevo la gomma da masticare in bocca. Quando fui pronta per cantare, le avevo tutti lì davanti, solo allora me ne accorsi. Non sapevo dove buttarla. Non avevo un pezzo di carta, né c'era un cestino a portata di mano, così me la tolsi di bocca e la appiccicai sopra il microfono. Forse pensarono che volevo fare la spiritosa, la divertente. Ma poi iniziai a cantare e cambiarono atteggiamento. Quando ebbe finito, Larry Storch mi disse: «Bambina, tu diventerai una star». Proprio come succede nei film. Barbara inizia a cantare al Bonsoir. È un salto notevole che molti artisti fanno dopo anni di carriera, non certo dopo poche settimane. È qui, al Bonsoir, che Barbara affina il suo personaggio. L'abbigliamento, quel trucco così particolare da egiziana, uno stile inconfondibile che asseconda una fisicità molto particolare. Riguardo al suo naso così pronunciato, è divertente quello che afferma l'attrice e doppiatrice statunitense Phyllis Diller, che divide con Barbara il camerino al Bonsoir. Avevamo uno stanzino minuscolo, era un luogo dove di solito si respirava la paura, quella che ti prende prima dello spettacolo, ma non quando c'era Barbara. Lei era serena, o almeno così sembrava. La prima volta che la vidi, devo ammettere che non mi fece una grande impressione, era così giovane. Ma poi quando salì sul palco e iniziò a cantare, alla terza nota mi venne la pelle d'oca su tutto il corpo. Era incredibile. Quando tornò le dissi: «Lo so che ti sembrerà stupido, ma non ti rifare mai il naso. Ci saranno impresari e manager poco sensibili e molto banali che te lo chiederanno, ma tu non farlo mai». Ora sono in molti a dire che le hanno suggerito di non rifarsi il naso, ma io sono stata la prima. Ma soprattutto quello che fa Barbara è scegliersi un repertorio. Le canzoni giuste da cantare, quelle che possono meglio mettere in risalto le sue incredibili doti canore, quelle che le permettano di dimostrare anche le sue capacità di attrice. Barbara ha un pensiero che si rivela decisivo. Quali sono le canzoni più importanti della sua vita? Certamente Over the Rainbow, che ascolta e riascolta fin da piccolina nella magica interpretazione del suo mito Judy Garland. Quella è certamente una canzone che l'ha segnata indelebilmente, quella che l'ha spinta a diventare un artista. Beh, l'altra canzone della sua vita è quella che canta a Lion quando vince il concorso canoro, A Sleeping Bee. Cosa hanno in comune queste due canzoni? Le ha scritte entrambe il grande compositore Errol Darlin. I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain or come shine. Ti amerò come non ti ha mai amata nessuno, che ci sia la pioggia o splenda il sole. Canta il mitico Frank Sinatra. È lui, uno dei tanti interpreti di grande fama e successo che nel corso degli anni cantano questa e tante altre composizioni del grande Harold Harlan. Anche Barbara Streisand gli rende omaggio cantandola dal vivo e con molta emozione al Florida Concert del 2006. Harold Harlan, il secondo incontro fondamentale nella carriera di Barbara Streisand dopo Judy Garland. Un compositore prolifico, pluripremiato, osannato da critica e pubblico per le sue stupende composizioni, che elegge la grande interprete a sua musa. Who's afraid of the big bad wolf? The big bad wolf, the big bad wolf. Who's afraid of the big bad wolf? Tra la la la la. Who's afraid of the big bad wolf? Chi ha paura del lupo cattivo? È una canzoncina che tutti conosciamo, quella dei tre porcellini, tanto per intenderci, il film realizzato da Disney nel lontano 1933. Scritta da Frank Churchill ed Anne Ronell, ha un successo strepitoso negli Stati Uniti e ben presto conquista le hit di tutto il mondo. Ma è pur sempre una canzone per bambini. Che cosa ci fa nel disco di esordio di una giovane cantante pop americana che esce nel 1963? La cosa più importante del mio primo contratto fu una clausola unica che mi dava il diritto di scegliere le canzoni per conto mio. Era la sola cosa della quale mi importasse veramente. Ricevetti ugualmente pressioni dalla casa discografica per aggiungere alcuni titoli, grandi successi pop. Ma io tenni duro ed inserì solo ed esclusivamente quelle canzoni che avevano un significato profondo per me. La grande Barbara Streisand, il mitico personaggio dei magnifici destini di oggi, si dimostra una donna di carattere fin dai suoi esordi. Quella che avete appena sentito è la dichiarazione relativa al suo primissimo disco, The Barbara Streisand Album, che esce nel 1963 con l'etichetta Columbia Records. Barbara in fondo è una sconosciuta. Sì, ha vinto un concorso canoro del nightclub The Lion nel Greenwich Village a New York, ma non è ancora una star. Il suo atteggiamento però è quello di una diva consumata. È sicura di quello che fa, non accetta suggerimenti né compromessi. E fra le canzoni che sceglie inserisce proprio Who's Afraid of the Big Bad Wolf, perché è una delle sue canzoni preferite da bambina, oltre a quella A Sleeping Bee che le ha portato tanta fortuna. Quando Harold Harlan la sente cantare, rimane talmente impressionato che accetta di firmare il commento sul retro del disco e le sue parole sono una vera e propria previsione del futuro. Vi avviso. Seguite la carriera di Barbara Streisand. Questa giovane donna, ha appena 20 anni, ha un futuro strepitoso davanti a sé. Continuate ad ascoltarla, continuate a seguirla e, per favore, ricordatevi che io ve l'avevo detto. Ma chi è Harold Harlan, questo compositore che Barbara Streisand ama fin da piccolissima? Quando ascolta Judy Garland nel Mago di Oz, non sa nemmeno come si chiami colui che ha scritto quelle note così meravigliose che la fanno sognare. Un amore che prosegue anche quando Barbara cresce, tanto che quando deve cantare per la prima volta nella sua vita davanti a un pubblico, sceglie ancora un suo brano. Quest'uomo sembra essere una costante nella sua vita privata e nella sua carriera. Harlan non è un cantante, ma gli capita di tanto in tanto di incidere le sue canzoni per farle ascoltare agli interpreti, come in questo caso, una rarissima incisione di Ill Wind, vento malato, del 1934, che canta al Cotton Club di Harlem. È un compositore molto prolifico, scrive decine e decine di cosiddetti standard, quelle canzoni di così grande successo da diventare parte delle vite di tutti. Quando compone le musiche per Il Mago di Oz nel 1938 ha solo 33 anni, uno tra i più giovani compositori di tutti i tempi ad aggiudicarsi l'Oscar per la migliore canzone originale con Over the Rainbow. Tutti i cantanti più famosi, più quotati, più bravi, cantano le sue creazioni. Nel 1963, quando incontra per la prima volta Barbara Streisand, lui ha quasi 60 anni ed è un mito. E lei ne ha appena 20 ed è ai suoi esordi. Ma come abbiamo visto, né lei si fa problemi a inserire nel suo primo album una canzone del grande compositore, né tantomeno lui si tira indietro nel farle quella dedica così azzeccata. Si potrebbe definire un rapporto alla pari, che sfocia anche in un fantastico duetto dei due. Ding dong, the witch is dead. Witch, oh, witch. Well, the wicked witch. Oh. Ding dong, the wicked witch is dead. Oublier, happy day. Wake up, you sleepy head. Rub your eyes. Get out of that bed. Wake up, the wicked witch is dead. Il primo disco di Barbara Streisand, da lei voluto proprio così, con quelle canzoni inusuali, fuori dagli schemi correnti dei discografici dell'epoca, vince ben 4 Grammy Award. Disco dell'anno, miglior performance vocale femminile, disco contenente una nomination agli Oscar e miglior copertina. È il trionfo. Barbara ha solo 20 anni e diventa una star. E nel suo secondo disco, che esce subito dopo, sempre nel 1963, su 11 canzoni Barbara sceglie ben 5 brani di Harold Arlen. Il loro diventa un sodalizio unico. Lui la definisce la sua musa. Eravamo velocissimi. Facevamo un disco in 3 giorni, 4 canzoni al giorno. E credo che questo sia il motivo per cui ancora oggi io registro i miei dischi con un'orchestra che suona dal vivo. Non lo faccio in maniera moderna. È più costoso, ma è molto più divertente. Anche il secondo album di Barbara diventa un disco d'oro, ma non solo. Le sue interpretazioni sono talmente particolari e uniche da svelare le sue doti nascoste di grande attrice. Ad accorgersene per primo è il compositore Julie Stein. Vedi, Barbara non solo possiede una voce che è un dono di Dio, ma è l'unica cantante che io conosca che recita ogni singola canzone che canta. E in tanti anni di lavoro come autore di canzoni ho collaborato con un numero infinito di interpreti, ma non sono mai stato così colpito da qualcuno. Non vedo l'ora di sentirla nel nostro nuovo lavoro insieme. A cosa si riferisce Julie Stein? A qualcosa di assolutamente incredibile che sta per capitare alla nostra Barbara. Broadway le apre le porte. Funny. Did you hear that? Funny. Yeah, the guy said, honey, you're a funny girl. Funny Girl, il musical scritto da Julie Stein e Bob Merrill, liberamente ispirato alla vita dell'attrice Fanny Bryce, può avere solo un interprete, lei. La magica, meravigliosa, strabiliante Broadway, punto di arrivo della maggior parte dei cantanti e degli attori di tutto il mondo, acclama e vuole solo Barbara. Il pubblico la osanna. Per lei è la prima volta che sale sul palcoscenico e non è quello di un oscuro teatrino di periferia, ma il tempio dello spettacolo mondiale. Eppure non ha tentennamenti. Sembra nata per quella parte, non solo canta magnificamente, ma si rivela essere un'attrice dal talento incomparabile. Il successo arride a Barbara. E lei che cosa sogna? In così poco tempo si è trasformata in una diva. Solo 4 anni prima era una sconosciuta e ora tutti la acclamano. Cosa può desiderare di più una ragazza di 23 anni? Un duetto. Sì, un duetto, con il suo mito. L'attrice che ha significato tutto per lei, la donna di spettacolo che più ammira, Judy Garland. Forget your trouble. Happy day. Come on, get happy. A hero again, a sky. Above a clear again. Shout hallelujah. So let's sing a song. Come on and have me. Cheer again. Get ready. Happy days are here. Siamo negli studios dove si registra lo show di Judy Garland. Questo luogo deve apparire un posto fatato alla giovanissima Barbara. Lei non ha occhi che per Judy, la ammira moltissimo. In fondo è a lei che deve l'aver deciso di fare l'attrice. Cantano insieme, Judy e Barbara. Non ci è dato sapere che cosa le due donne si indichino in privato, ma è sicuro che Barbara racconti a Judy di quando la ascoltava da ragazzina, mentre Judy la sprona a continuare nella sua carriera di attrice. E ci vede giusto. Da questo momento in poi per Barbara è un'escalation continua. Funny Girl diventa un film nel 1968. È il suo primo film, ma le vale addirittura l'Oscar per la migliore attrice che condivide con la mitica Katharine Hepburn. Ciao Oscar, che bello che sei! Sono onorata di essere in compagnia della magnifica Katharine Hepburn. Mentre stavo seduta in platea prima, pensavo che la sceneggiatura di Funny Girl hanno iniziato a scriverla quando io avevo solo 11 anni. Meno male che ci hanno messo così tanto a ultimarla. Ringrazio gli autori che... Barbara ha soltanto 26 anni. ed è nel mondo dello spettacolo da pochissimo, ma in questa serata di premiazione del 41esimo Academy Award si dimostra spigliata e divertente, una vera star. È anche grata di questa parte perché grazie a Funny Girl si è innamorata. È su questo set, infatti, che incontra l'affascinante Omar Sharif, con il quale vive una appassionata anche se breve storia d'amore. You? Huh? Are woman. I am man. You are smaller, so I can be taller than. You are softer to the touch. It's a feeling I like feeling very much. L'anno dopo, Barbara è sul set di Hello Dolly, di Gene Kelly, dove canta, balla, recita e ammalia con la sua grazia e bravura, e dove soprattutto duetta niente meno che con il grandissimo Louis Armstrong. Oramai è una grande diva. Memories light the corners of my mind. I ricordi possono essere belli adesso, e ciò che è troppo doloroso da ricordare scegliamo semplicemente di dimenticarlo. Così sono le risate che ricorderemo ogni volta che ripenseremo a come eravamo. Così canta Katie Morosky a Hubble Gardiner. I due si incontrano al college nel 1930. Lei è un'attivista ebrea comunista, lui un giovane rampollo della upper class statunitense. Si amano, ma si lasciano perché non possono stare insieme, sono troppo diversi. Per 30 anni le loro vite si incrociano, raccontando attraverso la loro vicenda la storia d'America. Come eravamo è l'intenso film del 1973 di Sidney Pollack, interpretato da Robert Redford e Barbara Streisand, che raggiunge con questa canzone un livello interpretativo eccelso. Il film vince l'Oscar per la migliore colonna sonora e la migliore canzone originale, e certamente Barbara ha una grande parte di merito in questi riconoscimenti. Ormai Barbara è una star acclamata, ha solo 32 anni, ma è al top della carriera, ricca, famosa. Finalmente può prendere in mano il proprio destino in tutto e per tutto, così come ha cercato di fare sempre, fin da quando sceglie le canzoni di Harold Arlen nei suoi primi album. Qual è il suo sogno? Forse possiamo immaginarcelo, interpretare un ruolo bellissimo che è stato il cavallo di battaglia della sua grande ispiratrice. Nel 1976 il suo sogno diventa realtà. La star produce e interpreta il remake del capolavoro di Judy Garland del 1954, È nata una stella. Barbara sente di poter dare veramente il meglio di sé in questo progetto. L'ispirazione che le deriva dall'essere nei panni di Esther Hoffman, l'aspirante cantante e attrice che fu la più grande interpretazione di Judy Garland, le dà la forza non solo di essere produttrice e interprete principale del progetto, ma addirittura di cimentarsi nella composizione. La sua ispirazione è al massimo, e da essa nasce la canzone Evergreen, che l'attrice compone sulle parole di Paul Williams. Il successo è grandioso. 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ma soprattutto il più alto riconoscimento in assoluto, l'Oscar per la migliore canzone originale, che fa entrare Barbara Streisand nella storia. È infatti la prima donna ad averlo vinto e una delle poche nella storia degli Oscar insieme a Carly Simon e Annie Lennox. La grande Barbara è abituata a vivere sui set, nelle sale di registrazione. Sa come funziona la produzione di un film, ormai è una professionista di grandissima esperienza. Le viene naturale passare dietro la macchina da presa. La sua prima regia è Yentl, film musicale del 1983, in cui la cantante di origini ebraiche racconta la storia di una ragazza ebrea che si ribella alle tradizioni troppo severe che limitano le donne, travestendosi da uomo. May the light of this flickering candle illuminate the night the way your spirit illuminates my soul. Così considerato un vero capolavoro, un film che a detta di Steven Spielberg avrebbe meritato molto di più del solo Oscar per la colonna sonora, Yentl non è l'unica regia che firma Barbara. Ritorna ancora dietro la macchina da presa con due pellicole, Il principe delle maree e L'amore a due facce. E nonostante 50 anni di carriera senza mai fermarsi, la star ha recentemente annunciato la sua partecipazione a un nuovo film e l'intenzione di realizzare un suo progetto di regia dalle proporzioni grandiose. Insomma, una vera diva, una donna instancabile e un'artista completa che ha raggiunto la massima eccellenza in tutte le arti in cui si è cimentata. E ora, dopo che l'abbiamo sentita cantare tante volte fin qui, ascoltiamo insieme un'altra canzone della grande Barbara. Found someone who knocks me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. Started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. I Finally Found Someone è una stupenda canzone di Barbara Streisand, parte della colonna sonora del suo film L'amore a due facce, che viene candidata all'Oscar nel 1997. Si tratta di una registrazione dal vivo, proprio durante la serata degli Award. Ma ascoltiamola meglio. My favorite line, whiskey. It's all you had to say to take my breath away. Barbara Streisand la sta ascoltando ed è molto soddisfatta. La sta ascoltando, sì, perché la voce non è la sua, anche se la canzone l'ha scritta proprio lei con Bryan Adams, con il quale ha realizzato uno storico duetto. Ad interpretarla alla serata degli Award è una grandissima cantante che viene considerata l'erede di Barbara Streisand. È proprio lei, è Céline Dion. Grandissima, intensa, dalle sonorità forse più acute rispetto a Barbara. Céline ha una totale ammirazione per la grande interprete e quando nel 1991 conquista la fama internazionale cantando la canzone La Bella e la Bestia, tratta dal film di Disney, aggiudicandosi l'Oscar, prova una grande felicità in più, perché sono molti i critici musicali che la definiscono la nuova Streisand, la cantante a cui lei si è sempre ispirata fin da piccola. Can be barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Il 25 marzo 1997, il giorno dopo la serata degli Academy Award e delle performance di Céline, la giovane cantante è nel suo appartamento di Los Angeles e si vede recapitare un meraviglioso bouquet di fiori e una lettera. È di Barbara. Ho riguardato la registrazione della serata. Ho voluto risentirti. Hai cantato magnificamente la mia canzone. La prossima volta facciamone una insieme. René Angelil, marito e manager di Céline Dion, non se lo fa ripetere due volte. Coglie la palla al balzo perché si rende conto che un'occasione così non va sprecata. Chiama il grande compositore David Foster, l'autore di tutti i cantanti più famosi nel mondo, che scrive per Barbara e Céline una canzone che si adatta in maniera perfetta alle due interpreti. La Streisand registra la sua parte a Los Angeles, Céline Dion a New York. Quando Barbara sente il pezzo mixato, chiama al telefono la collega. Bisogna che mi insegni. Insegnarle cosa? Ad avere della disciplina. Ma lei non ha bisogno di imparare nulla da me, lei è la più grande cantante del mondo. Dobbiamo tutti imparare gli uni dagli altri. Ma tu apprendi più velocemente di noi, perché hai una grande voce ed una grande anima. Sono davvero fiera di te. Céline Dion racconta di essersi emozionata così tanto da non avere saputo rispondere nulla, ma di essere semplicemente scoppiata in lacrime. Due giorni dopo, finalmente, le cantanti si incontrano a casa di Barbara. Il feeling fra le due è fortissimo e decidono di cantare la canzone insieme, dal vivo. Il risultato è un video che fa il giro del mondo e una canzone che diventa una hit, specialmente in Europa, e che le due cantanti includono nei rispettivi album del 2000 e del 2002. Will he think me weak? tremble when I speak.